44. Correvano da 4 giorni. Si erano concessi appena il tempo di mangiare e riposare, quanto bastava a recuperare le forze. I più vecchi iniziavano a rimanere indietro. Filippa aveva deciso di marciare in coda alla colonna per essere certo che nessuno crollasse. Anche i ragazzi erano stanchi. Non avevano mai affrontato una fatica simile. Non mancava molto ormai. Genisio destava una 20 miglia. L'indomani avrebbero raggiunto il campo di Butler per riunirsi al grosso del contingente. Poteva essere l'ultimo momento di riposo prima dello scontro. Seduto in mezzo al bivacco, Philip osservò i volti uno a uno, come davanti a un affresco. I corpi mandavano un'energia che non aveva il sapore del sangue e del piombo. Parevano gli abitanti di una città sconosciuta, in marcia per fermare un uragano o un'inondazione. Guardava i ragazzini dagli occhi increduli e non li immaginava lottare al coltello. Li vedeva nel bosco, a caccia del cervo o a nuotare in un fiume. Guardava i guerrieri attempati e non si domandava quanti nemici potessero uccidere, ma dove avrebbero portato le famiglie all'inizio dell'inverno. Li vedeva circondati di figli e nipoti morire nel villaggio dei padri, non coperti di polvere e sangue. Guardava i volontari bianchi che scortavano Joseph e vedeva i mercanti, contadini, fabbri e falegnami. Aveva occhi nuovi. Forse avrebbe visto le stesse cose anche sulla faccia dei nemici. Gli uomini di Sullivan erano tedeschi, olandesi, inglesi, Whig, irlandesi, esuli, corsi, mercenari svizzeri, guideonei dai Tuscarora. Di sicuro alcuni combattevano per un principio, altri per la paga, altri ancora per la gloria o paura. C'era chi aveva seguito il fratello maggiore e chi si era arruolato contro il parere del padre. Alcuni odiavano, altri cercavano un tornaconto. Filippo sapeva del motto che Sullivan portava sugli stendardi: civiltà o morte. I suoi soldati lo gridavano in coro per brindare alla distruzione. Lo gridavano alle case di pietra e ai campi coltivati, agli abiti di lana e ai fucili. Lo gridavano a un'alleanza di popoli che s'era data una legge di pace in un tempo remoto. Lo gridavano per dire che chiunque non fosse uguale a loro meritava lo sterminio. Eppure nemmeno tra loro si assomigliavano. Filippo tornò a guardare la pianura. Dopo molte lune era di nuovo pronto a combattere, anche se non c'era più un popolo da difendere. «Noi dobbiamo vivere», ripeté Esther nella sua mente. «Se mai quello che stava per succedere gliel'avesse concesso, sarebbe tornato indietro a cercare quel nuovo inizio». Anche le sentinelle che segnalarono il loro arrivo sembravano contagiate dall'umore dell'accampamento, aria di smobilitazione. Joseph condusse la colonna di vecchi e ragazzi intorno ai fuochi ancora accesi perché riposassero e mangiassero qualcosa. Filippo lo affiancò e gli sfiorò il braccio. Indicò i pali di guerra. Sotto un nugolo di mosche, due Oneida sventrati. I più giovani li guardavano impressionati. Joseph si irrigidì e vide John Butler venirgli incontro. «Le novità non sono buone, Joseph Brent». In poche frasi raccontò dell'attacco fallito all'avanguardia nemica. Joseph resse il colpo. «Sullivan è troppo furbo per lasciarsi sorprendere, ora che è stato avvertito», aggiunse Butler. «Non possiamo reggere una battaglia in campo aperto. Sono troppi. Genisio è spacciata». Joseph guardò Philip. Vide la propria delusione riflessa negli occhi dell'amico. La corsa era stata inutile. Indicò gli uomini che toglievano le tende. «Dove vanno?» «A casa», rispose Butler, mentre osservava l'accozzaglia giunta da Niagara. «Rimanda indietro questa gente, che tornino dalle loro madri», scorse le capigliature grigie. «E dai figli», aggiunse. «Non possiamo fare più niente, è finita, Joseph. I Seneca combattevano per Genisio, nient'altro. Ora torneranno a crepare di fame e di freddo a Fort Niagara», azzannò il tabacco. «Anche i nostri uomini vogliono tornare a casa, quelli che ne hanno ancora una. Gli altri li porto con me a Oswego. Quando Sir John scenderà da Montreal con i rinforzi, riprenderanno la guerra». «Abbandonate Fort Niagara?» Butler sospirò e si fece più vicino, come se volesse condividere un segreto. «Abbiamo estorto informazioni ai prigionieri. Non è Niagara l'obiettivo di Sullivan». Joseph rimase zitto, valutando l'informazione più inaspettata. «Punterà a est», aggiunse l'irlandese. Nel silenzio che seguì, i pensieri di Joseph viaggiarono veloci. Percorsero la pianura fino alle 5 dita e poi ancora oltre, fino alla valle del Mohawk. «Vuole distruggere le altre città», disse Butler. «Spazzare via tutto». Joseph fissò le braci. La tentazione di piegare le spalle era forte. La stanchezza del viaggio stava per avere il sopravvento. Le forze erano impegnate a tenere a bada l'angoscia. Pensò che le sei nazioni presto sarebbero state cenere, abbandonate al loro destino dagli alleati. Prima Guy Johnson, poi Sir John e Daniel Klaus, infine John Butler. Aveva combattuto al suo fianco fino all'ultimo, ma ormai anche per lui gli indiani erano una palla al piede di 3.000 affamati. La voce del figlio richiamò l'attenzione di Butler. Walter era pronto, i Ranger si stavano disponendo in colonna. «Vieni con noi», disse il vecchio irlandese. Joseph restò immobile. «Ti aspetteremo a Oswego», aggiunse Butler, scuro in volto. Dietro di lui i Ranger si misero in marcia, silenziosi e stanchi. Anche i Seneca partivano alla spicciolata. Piccoli gruppi di guerrieri sparivano lungo il sentiero. Joseph controllò le provviste e l'acqua nella borraccia. «Sullivan va a est», disse rivolto a Philip. «La prima città sul suo cammino è Cayuga. Ci sono i miei figli laggiù, mia madre. Sono quasi 90 miglia. Riporta gli anziani e i ragazzi a Niagara», ordinò Joseph. «Son venuti fin qui, troveranno la via del ritorno», rispose l'amico, infilando la tracolla del fucile. «A Cayuga ci sono vecchi e bambini. Dobbiamo portare via tutti». «Noi due soltanto?» Philip indicò le sue spalle. «Sembra di no». Joseph si volse e vide Kanahtawakon fermo a pochi passi, appoggiato alla canna del fucile, pronto a partire. Senza altre parole, i tre uomini si incamminarono verso il margine del campo, ma le figure di due guerrieri si pararono davanti a loro sul sentiero. «Volete andare contro Sullivan da soli?» chiese Rognateca. «Andiamo a salvare i miei figli», rispose Joseph. «Un'impresa degna d'essere ricordata?» chiese Canenonte. «Degna di un figlio del clan del lupo». Canenonte sorrise, mentre Rognateca lanciava l'ululato di guerra. Corsero, attraverso la piana e nel fitto degli alberi, incalzati dal crepuscolo e dalla sorte. Un'armata di 5 uomini e molti fantasmi. Corsero per salvare un pugno di anime dall'apocalisse. Corsero, perché così era scritto. Ora che il tempo finiva, ogni cosa trovava compimento.